bella. Nessun canta a guardare per ore la nostra stella, che mi segue da sopra il balcone e ci mette 3 mesi per farmi un maglione. Ma non essere gelosa, sei tu la più bella. Sai perché amore sei tu la più bella.